testa nella moto qua giù. Ah sì, io sono lì a Biassaggio, non è un play. Come dice, com'è la... Se ne messo qualche cosa, qualche... come cavolo si chiama? Uno di quelli da cantiere, di quelle... qual è il cravatito del cantiere, là? No, non è giusto, con l'ultimo pezzo che sto con l'avanzo qua. Poi c'è un altro che c'è la cattiva di grossa, fa un pezzo di dirci. Fondi bocco, grazie, stai disturbando, tua figlia non ti capisco. Ma tu non capisci a me, io ti scusi, sì. Yeah. nome, qual è? La volta che ci ho sentito la chiesa di Natalia, la chiesa di Marco. Andiamo al torre di Pensasso. L'ho sentito anche stasera. Stavo chiamando sulla tua monitor qua. Beh, non c'è io. Ma no, la chiamatore cucino. La chiamatore, la chiamatore mio, o Luca. È uno dei più bravi assieme a Marco di XCC. Sta impegnando moltissimo. A parte il fatto che parla molto bene le lingue. Bravissima persona, bravissimo ragazzo, ma bravo davvero, è l'ultimo anno di università, sta studiando, che sta lavorando, e non ha occasione micidiale, c'è un parco antenne, Ranghiero, direttive, di tutto qua. Ehi, mi va, cos'ho? Lui che sta usando, il padre ormai attività sta facendo poca, però lui è molto, molto bravo, ma bravo davvero, però io lo seguo a volte quando ci spostiamo in HF. Non ce ne sta collegando tutto il mondo, è micidiale, molto molto bravo. Ma se conosci l'inglese, è elevato mi anche. Vabbè, lui è scritto all'università, parla l'inglese, l'ho sentito anche parlare molto bene il francese, il tedesco, visto che si arrangia abbastanza bene, è bravo, quando io devo dire che è una persona è valida in tutto, sia come persona, io lo conosco molto bene, da Cibira, da relatore, perché frequentiamo la stessa sezione, tra l'altro lui è il segretario della sezione di Alghero, quindi è impegnato anche in questa cosa, è una persona veramente, ma veramente squisita, veramente. Ma io l'ho conosciuto a Marco, lui ci sono andato per la sua, quando faceva il CB, la metteva lì alla fine del ponte, facevo anche una bella bassa, e poi si fa sentire di Malasur. C'è un paio di radio di quelle che c'ho io, a terra, e poi c'è una bella stazioncina, va bene. Beh signori, ma sapete cosa dico? Che cosa sto io se ne fa mangiare? Ci sentiamo poco, se ci siete ci facciamo vecchiate, se no a parte c'è Antonio, Luca Delfino, Natalino, chiunque fosse in ascolto, se sentite la Gianni Domi, ditele che ci sentiamo dopo, ciao, ci sentiamo. C'è stato un break, un attimino lo facciamo mettere avanti, Natali. Ciao, anche io adesso vado e preparo qualcosa di leggero, a mangiare. Al limite già entro più tardi anch'io, là. Ciao Luca, ciao a tutti quelli che ci sono in ascolto. Anch'io faccio in quel di causa carica. Ok, ciao, ci sentiamo. Avanti break, Zé. C'è stato un break, Zé, è sparito, Zé. Se sentiamo bene oggi. Santiga, l'Inter. Non che cazzo la stai usando, Mario? Thank you.

E patatini da minicetti, gli sono troppi, 32 nessuno. Se si fa da cagli apriamo il microfono. Sono Luca? No, non va bene quello del pacchino, questo è proprio con quello da tavolo. Ma lascia lì, se non me la fotti dimmi. Ma ti conviene, non è alto diventato, non ti acceso, almeno, insomma, rimane in tensione. A me da là. Dove va? Sono con il trono, ma sono di nuovo con il microfono da tavolo. Col? Microfono da tavolo. E con Midland. Sata, chi è meglio, il Midland o il basso come modulazione? Mi segnale se è più basso, 9,10 sì, 9,5, 9,10, da. Ma con l'altro è uguale. Non c'è una lunga, no, vabbè, quello lì già mi sono con un attimino piccolino, questo invece è il tasso con una grande. E la radio come diversa, come la senti? No, no, è forte, è forte. Non c'è una lunga? No, no, no, negativo, il segnale è più basso. Già lo grido, per forza c'ho anche un attimo. Questo quanto ti ha di segnale? 9,5 sì, dai. Luca! Chi è che lo va mio figlio? E questo invece è tu. Oggi 9,20 si roba, chi è che mi chiama? Io sono qua, hai finito? Hai finito? Ma col tubo sostituire lo devi dell'antenna, ma quant'è quel col tubo che hai tu e lui? Quello è... non lo so, non lo so davanti. Comunque uno è... il diametro è uguale a quello della segnalistica stradale. Quello dei trofi nelle strade, quei pareli sono uno di quelli. Poi l'altro innesta dentro, l'abbiamo bucato, abbiamo messo due bulloni, e niente. E poi innesta dentro la mantova, non so da quanto, sarà un pollice un quarto, un pollice e mezzo. Niente, mi devi cavarmi su, a me, sul bar, o lui. Ma che come devo studiare io? Avvertimi no, che... ma nella macchina ha messo in due fisse, chi sta? Sì, ho voglia. E scappa, no, perché io devo salirmi l'antenna, sennò è un mastello. 2,3 a salire, primo. L'altro è 1,5 metri, per fare, 1,70 metri. E io la dico, io sono arrivato di più, e si lascia un bongo. Perché io sono l'antenna troppo bassa. Pappa. Ti faccio sapere, adesso vediamo che fare, che fare. Guarda, bisogna, la mia bisogna sollevare, troppo bassa, troppo, troppo. La mia bassa vuol dire l'antenna. Perché ti sei più accorto di me? Io appunto un po' vedo, guadagno qualcosa di settimana, tanto c'è 5 metri di cavo in più. Quindi a cosa c'è altri 5 metri, non mi interessa alzare 5 metri, ma un tantino di più sì, almeno mi apro verso il mare, va sì. Io sto levando la un casino, è un casino per me, io là me ne frega niente, qua lo sposto, poi li metti metto questo marinotto, quando è che crea problemi dentro casa, se no diversamente non si può fare, perché dentro casa ne avrò 5 metri più o meno, se la sollevo di altri 3 metri, 4 metri, è tutto giusto, dai. Andiamo avanti, Robè. Non stai uscendo, non stai uscendo, non stai uscendo. Punto radio. Niente, sta salire il radio. Nuda. Nuda. Nuda. Poi ho un altro, non c'era Bustino, fuori ho una Claudio però. Lo so io. Mi ci ho promesso a lui. Uno a 2 metri. Poi ce ne metti un altro dentro. Sembra muri a 4 metri, 5 metri. E a coso e a... telescopico diciamo, eh. Come telescopico? Non è tubi che sono i bulloni attaccati, metti i bulloni per stringere il tubo, capito? A 2 metri, è zingato. Ah, capo, ma quello è fino. O 2,5 metri, mi pare, non lo ricordo. Tu qua? Ui. Avanti. Avanti. Vedi qua l'altro, guarda. Vai. Una vostra prova 30, 40 o 50? 9,10. Che gli passano con gli occhi, vanno con gli occhi, trovano contatto, ma arrivano con gli occhi. Con la mano hanno fatto 5 punti guadagno. Questa è una battaglia, quindi vado là, la stavo perdendo. Vado a fare una prova ancora. La prova fa lì. È bello, è bello. Però passa con l'altra antenna, e mi arrivi, è brutta la radio, l'altra è meglio. Ma no, sono con Palmaro, quando sono con lui, mi hanno fatto tutto con il microfono a Palma, con l'antenna grande. Adesso ho fatto la prova col fatto, ho fatto una con l'antenna grande, allora la vista rossa. Guarda il suonale con la rossa. E non l'ho mandato, è stato troppo lento, perché no, è comodino. L'apparecchio, questo qui perché l'ho messo, perché sono coricato, non l'ho messo qua, capito? Aspetta un attimo, Robe. Ma stai usando il microfono originale dell'apparecchio? Sappa. L'apparecchio è meglio la volta, la mia o la sua? È la tua più alta, più chiara. È preciso, non cambia niente, non cambia nulla, nulla. No, ma lui, questo microfono da me non si va subito. E basta controllarlo, non è a me, te lo controllo io. Vediamo un po' se la capsula, siccome è la roba di capsula lì. Se la compri, si cambia e vedrai che poi funziona bene. Se ne prendi una da 500 ohm. Aiuto, se la compro col presidente, là, che c'è io, aiuto, che me la devo vendere. Natali, io mi stavo vendendo un apparecchio bello, 5 bande, il tutto, il frequenzimetro, il microfono a tavolo, 150 euro, nuovo. Vabbè, ma io è un presidente diverso dal tutto, il tutto ce l'ho avuto anch'io. È un'altra bomba, poi in banda laterale è una bella, l'ho provato stasera con uno di chi stavo parlando, una bomba. Vabbè, una volta qua l'ho voluto, l'ho visto. Frequenzimetro c'è pure. Bello, come piace a me. E sugli occhi di Galaxy, io non ti sto forzando. Io anche lì lo sto vendendo, però non sono a darlo, mi chiedo. Devo cercare di darlo perché mi serve un'altra cosa che mi devo comprare, però non c'è soldi. E lo sto andando per quello, se no non l'avevo dato. Perché nuovo il mio. Se senti qualcuno che se lo vuol prendere. Mi sento uno che 200 euro, beh. Io sto prendendo il tutto nuovo, lo stesso. Il microfono a tavolo è nuovo, e l'ho visto. C'è 50 euro, si può pigliare. Adesso sono rientrato con il fatto del microfono da tavolo, quant'è la musica? 9 più 20. E non fa gubba, Robè, non fa gubba lì. Dalla notizia passa 9 più 20 rispetto al Midland. Con la terra piccola invece faccio 9 più 5 con Midland, così Luca. Cavagava, scappa. 9 più 5. Ma sicuramente quel Midland è... Ma nuovo, nuovo, Non mi fa, non dice, no. Non da compagni di mese, visto. Scappa. Bisogna controllarlo un po'. Allora, Antonio, te lo fai tirare un po'. Ah, non me l'ha fatto lui. L'ha mollato questo, 3 watt e mezzo tira fuori. Adesso fa portare a 5, sì. No, sto qua, cosa adesso tira? 4 e mezzo, dai, 4 e mezzo. Ma la guida c'è una modifica, la porta tira a 30 watt, ma non mi ha fatto nulla. No, è impossibile, non si può mai tirare a 30 watt, ma si può tirare a 10. Sono cazzati che ci stavi dritto. No, c'è un programma, l'ho visto su internet, 30 watt che tira fuori. C'è una modifica, però non mi ha fatto la fare. Non farlo toccare, abbiamo lavato, la sono venuti. No, io non tocco niente, io sono contrario a modificare gli apparati, non avete mai modificato nulla, prima a modificare gli apparati. No, questo qua è il mio originale, 4 watt e mezzo. Ma è manco zinco di buca, figurati. Infatti l'abbiamo lavato, la legge come ormai. Tanto per fare gli affari, cosa che ne frega. Lo sentiamo tutti, anche con un gatto che ci sentiamo. Infatti, per la città già va bene. E l'avanza a muro, già va bene, già va. Kappa. Quindi sentivamo quello di concesso, sentivamo, non solo Claudio lo sentiva quello di Ottini, con altri mille riusciva a farsi sentire da Claudio, soltanto 2 o 3 arrivava. Poi ho messo in faccia, soltanto a me e a Mario pure. Claudio c'è la posizione. Ma noi non riuscivamo a prenderlo per niente, Claudio non riusciva a tirarlo fuori, c'è una ricezione, non c'era, perché la ricezione recessione, c'è una recessione assurda. È una zona che ha, è tutto a forte per quella zona lì. E quando facevano la gara, lui arrivava la mattina di Lattiro, io via. Comunque, arrivo meglio da Flavio Rino, col passo che cosa con il presidente, come si chiama, ha fatto, col presidente Jackson, mi sembra che c'ha, come si chiama, Fabio, e c'ha la mano qua su, ma io quello di vicino arrivo meglio io. E chi è questo Fabio? Quello che qua a Carbonato, con questo di cosa, CB. E bisogna vedere la zona, l'antenna come, un sacco di cose c'è da vedere. E la si porta anche da Claudio, figurati. E non lo dico se è più amico da Claudio, non lo so entra, come ti è, in la posizione è, e non mettere l'antenna, e lui viene lì, sempre, capito? Tu c'è un presidente di Washington, non dico, Washington, c'è. Sarà quello da più cosa, con gli omologati, da. E poi non dobbiamo attivare il tira fuori. Non lo so se servate qui da questa. Andava. Ma questo è omologato, questo è faccio omologato. C'è il canale 5 vato, non so esattamente, non l'ho mai misurato. Però è 40 canali questo. Ma anche io sono 40 canali, tutti e due. Vabbè, non è detto, mi sono chiesto di un anno 150, 200. Vabbè, c'entra. Ma di omologato stai parlando? Questo fa una parte omologata, non abbiamo detto di 40 canali. Questo c'ha le bande laterali, c'ha un USB e l'USB in più della M. Però non ha l'SM, non me ne ho più nulla. C'ha tutto, mi manca soltanto il frequentimetro, che vabbè, poi lo senti quell'ecco che avrei voluto. E se questo non si lo può mettere a forma se lo vuoi. Sì, sì, capo, non so cosa si può mettere in terra, però sarebbe stato più bello avere per questi mettono tipo Saturno come c'era tutto insieme, l'unico apparato c'ha lo GMP, eccetera, eccetera. Ma il babbo lo vedi nei guai, il frequentimetro, se non hai la calibrazione è un macello. Tanto guardi sempre il canale, mi senti in conto. Tappa, tappa. Infatti, se è quello, non te ne fai il frequentimetro. Dammelo ok, più canali, vaffanno a qui. Uno ti dice vai 27-550 quasi. Tu qui hanno 27-550, ma se hai 40 canali, guarda ne vado per questi metro. Sì, tu, vabbè, va bene, vabbè, così fa bannetta, più che altro, vabbè, con sta quel coso, quasi cosa che ne fai, tu dici, no, no, metterlo sull'apparato, invece secondo me è abbastanza forse inutile, così non si attacca a nulla. Ah, ma io, non me ne dà fastidio, la verità. Non me ne dà, c'è la lampadina. Perciò è tutto illuminato qua, adesso usciamo. Se fosse stato senza lampadina, vabbè, gli avrei messo ugualmente. L'avrei staccato, ci vuole la lampadina e non l'ha acceso, cosa lo mette a fuoco. Quando parlo sale quello dei fat, tutto qua, non è che niente, non, poi c'è l'altro acceso, il Mobicom. E fanno un po' di luce tutte e tre. Il Mobicom ce l'avevo io, mi manico io. No, ho messo il microfono e non gliel'ho tornato, ma bello veramente quel mobico, meno bruno. Ma pure che illumina, te non è vecchio, fanno forse, se c'è tanta panna panna graffiati, sicuramente il camion che te ne fa, fa sedile, non mi so. Ma no, questo qua è nuovo, questo lì con le città per le fiammate, dentro è nuovo, nuovo, nuovo, nuovo. No, questo è da quando era civile, se l'aveva, infatti lui ce l'ha attaccato all'antenna magnetica per ascoltare, la pizza. Gappa, gappa. Dobbiamo essere il microfono, io l'ho tornato, tanto io cosa me ne faccio, a rimbarrare. Ma diciamo che è il Mobicom bellino con la parecchia, a me piace. Ti andava, sarebbe male si più bagati, andava. Infatti. Io la te lo stavo vendendo, se riuscivo a vendere questo mi avrei preso il tuo. Siccome non mi vogliono dare di meno, io per di meno non lo 120 euro mi vogliono dare. Niente, no, io rimani rocchi. Infatti. Tu hai omologato, dici, non lo dai. Ah, ce l'ho già omologato questo stesso giorno adesso, già me ne frega. C'è questo, vogliamo i vostri di tanti baracchini. No, vabbè, mi sarebbe piaciuto, solo baracchini, tanto gli altri non posso detenere. E così li avrei attaccati, giusto per vedere un po' un po' di illuminazione, a tipo ma è una cosa natalizio. andare va più che bene, non mi lamento, perché io ce li amo i miei, buon per lui, ma non si può di lui, mi accontento di poco, tutto qua. Io non sono di nessuno, sono bravo studioso di bravo di altri, io mi accontento di quello che ho io. Infatti, non è che no, già va bene, mi sentono tutti, dove fino che arrivo va bene, non c'è problema. Vabbè, non mi intendi se la biglia non tocca Eva. Già va bene, KK. Oh, sono uscito di Libiglio a Tarino, via. Io povero me, sento in chiuso, sposta di pollo là, sposta di pollo qua, sta di trovare la televisione, spostalo di là, mamma mia, va. Vabbè, sono uscito terra a terra, vabbè. Quando mi sentiva bene me, arrivano e basta. Poi gli vabbè, Franco, gli altri mi sentivano basta. Quindi, no, ma grazie a Dio, ma sei di più bene. Qui sono di voi, non so di una cosa. Infatti, no, andiamo a andare a uscire a Tarino. Mi va più. Tu che bene, avanti Roberto. Natali, ma per migliorare la ricezione cosa posso fare io? Solo un diplomo devo mettere, un diplomo di ricezione orizzontale, posso migliorare qualcosa? Ma qua la ricezione vuoi migliorare, non la farete così. Là la sala Antonia come sta, là il mondo come sta. Il diplomo lo puoi avere, come quello che ho io. Sono un apparecchio, ho visto di fare radio materiale, allora sì che lo puoi utilizzare, per ascoltare altre bande, perché giustamente il diplomo in quelle bande lì usando di più, arrivano più forti il segnale, è più silenzioso, è tutto, capito, però vorrei migliorare un diplomo, avevo un barrasso in più, un diplomo si va a lasciare i luoghi di andare, ma se no non se ne va in nulla. No, no, io quando dispongo con la 27, è solo ricezione, ho bisogno solo di ricezione, per migliorare il numero del QRM e migliorare la ricezione. Ma il direttivo è direttivo, capito, prende la parte solo. Uscire, non è che si riesce a aprirlo, c'è solamente a tiro rovesciata. A volo rovesciata andrebbe adesso. Quanto è alto il palo dell'antennatura, Robert? Vabbè, il palo non è molto alto perché esce fuori dal terrazzo, cioè supera il terrazzo di 2,5 metri, poi c'è l'antenna sopra, perché è sopra la tomba da mercare, non è che la c'è la casettina che c'è dove c'è l'antenna, va supera di un paio di metri. Perché manca un due fica, va bene, perché è quasi 3 metri ogni braccio, e deve essere alto la torre, se no c'hai... che c'hai stazionario, va tutto, i bracci non devono toccare sul tetto, almeno vuole 1 metro spostato dal tetto, ogni braccio, va tutto là. Ma Natalino, si può mettere il dipolo verticale, cioè praticamente attaccarlo al tubo, non sono libero, lo mandissimo, si può attaccare così, no? Si può mettere, ma è come fare a metterlo? Vuole lontano dal tubo 1 metro lo stesso, almeno. È un macello, la piccola, continua tu. Poi da un due ostacoli, se non tu l'hai attaccato appena appena alla corda, te lo ricordi dove è il tuo. E ti ha fatto stazionare, perché vuole libero. C'è poco da fare. Io ando orizzontale, però va libero. E se vuoi bene va per tutto io. È un compito orizzontale io. Che palo lì di antenna, adesso vediamo. Ma non è che quando alzi il palo lo metti a un'università o lì, a un'università già va bene da te. Kappa. Un'università. Ma da Franco come l'avete piazzato? Quello di Franco lo stesso è un'università, però quello di Franco lo sai com'è. Vabbè, lasciamo perdere quello di Franco, ma se dai, vediamo Natale, appena cambia il palo, ti avviso, scendi e me lo spieghi tu, e anche non un primo, stavo investita, da dove la devo attaccare, se la devo attaccare la palo dell'antenna, poi non so, non li spiegherebbe bene. Esatto, lo spiego io, come tutti quelle misure per la Windows 8 appunto. Perché risulta omnidirezionale la Windows 8, invece in orizzontale è direttivo proprio. E funziona sui due lati solo e basta. Quando in orizzontale non è capito. La Windows 8 invece è più omnidirezionale. Dove ne faccio uno per ascoltare a tre frequenze? Mi faccio la... SWL, poi si chiama SWL, me ne faccio uno per ascoltare. Ecco, già te lo faccio io, Lippo, non ho problema da Lippo, non prego, tu fatti SWL. Io comprovo la WL Civitore. Ah, se ho voluto dire così, guarda, la cosa, Luca. All'inizio il presidente te lo porto io per l'estate, qualche collegamento te lo fai quando c'è preparazione, ma sì, se lo dico io non funziona, è tutto, e trovo a finire quanto funziona. Tappa tappa, no, ma io lo volevo per ascoltare, aspetta, ascoltare le radio amatoriali, ne faccio un discorso, mi prendo un'antenna, vedo come la foto. Ah, il dipolo lo va bene per le bande radiomateriali, la fissa. L'unica cosa che mi scappa è un servitore a KS, la fissa, noi lo ascolti da KS, perché quello sono bello da ascoltare. Si sta parlando, ascolti questi discorsi molto istruttivi, guarda, è un altro mondo, diciamo così. Oltre che senti tutto il mondo, non è che senti solo l'Italia o cose, senti un sacco di cose. Non lo riconosco perché se si ascolta bene. Tanto non le bando alte non chiama nessuno, io ho provato non chiama nessuno. Cappalappa, adesso vediamo, vediamo, e poi si farà, almeno c'è qualcosa in più. Cappalappa, avanti Robert, devo comprare un attimo, riprendete voi. Ho visto una di Nicolo, sono cantato con la leva qua, mi prende il fusano, Nicolo avrà 14 metri, è lungo, per 11 metri. Cosa? C'è un fusano, va là sul catalogo, ce l'ho già avuto, il catalogo delle antenne della Lemme, c'è un dipolo con la 11 metri. E beh, quanto è lungo? 14 metri e mezzo. Guarda, sto sbagliando, non è possibile che sia qua. 550 mezz'onda. Come fa a essere 14 metri? Io tra l'altro qualcosa del dipolo. Ho distratto il break. Capito la roba? Avanti il break. Sentito. Buonasera comunque. Buonasera. Ho fatto cucinare insomma una puntata e cosa doveva parlare, ma parecchio, mi ha fatto sentire che lo proviamo. E niente, ma sai, rimando pure che si ascolta, che sto facendo la cena, con la mia moglie. Ciao. Ma noi ci siamo già per sentito. Ma essendo un atta lì, questo lavora sull'11 e 45 metri, ed è... c'è scritto, si regola per i 45 metri, la lunghezza è 14,50. Ed è sbagliato anche come lunghezza, sarà cavolato, sarà quello che fa il carico. Si vuole di polo, devo fare una roba lunga. Cosa non era bello con le 45 metri? Ti voglio ovviamente 45 metri, vai tu. Aspettato, non si possono mangiare 45 metri. No, Flavio, io volevo con la 27, no, era necessario, ricezione dalla 27, lo chiamiamo dopo, chiamiamo il 22. Ma non era fatto la fare la carriera di quello con la 27? Sì, ma una cosa che funzioni effettivamente, cioè se no rimane come interciutto, io volevo migliorare per il discorso di ieri, tu dici che a prendere c'è una posizione migliore, eccetera, eccetera, non solo ascoltarmi con la mano fa quello, no? Cosa vuol dire la mia ricezione con la vostra? No, certamente il discorso no. Diminuendo il QRL, poi mettendo più abilità per l'antenna qualcosa riesce a fare. Ma non è in posizione in quella posizione. posizione, lo usi solo per la sua posizione, altro non c'è. No, io voglio migliorarmi le spalle, davanti sono aperto, hai visto, non è ostacolo, io la copertura ce l'ho sulle spalle. Lo so, io per Dio ho problemi di ricezione, non ne ho mai avuto e non ne avrò mai da qua su, anche perché il centro c'è una radio molto molto selettiva, capito? E poi la posizione mi aiuta tantissimo, nonostante abbia la verticale, mi aiuta tantissimo. Ma non che non si mette una selettiva motorizzata? Te lo faccio vedere. Mamma, mamma mia, rovinato qua. Metto solo una direttiva a testa, capito? Una direttiva a quattro elementi a testa, 10, 20, 40, 80, non mi interessa niente, solo una direttiva a testa metto, basta con i dipoli, con i pezzi di filo, una direttiva a buco, normale, un tubo, un rotore, non metto l'altro, niente, solo assolutamente nulla, una direttiva a 4 elementi, 10, 20, 40, 80, non è per niente, la metto e buco, adesso prossima fuori a 4, me la compro, mi faccio un bel giretto, me rilascio un pochino, mi è già saltato due fiere, e poi questa tanto me la faccio piazzare l'Andrea. Vai, vai, quello che ti dia, solo che è enorme come direttivo. Bianco, sicuramente sta mangiando caffè e acqua. c'è un fumogeno. Allora una volta che c'è città, devi dare il tempo che raccoglie il tuo cattacchio per poter nuovamente parlare. Ah, non è che più più forte entra lì. Vabbè, fare l'animatore non significa maniera forte, fare l'animatore significa tecnica educazione e tutto il resto. Sì, sì, capisco, naturalmente quello per forza. Però dico, se ci sono 100 persone collegate, voi deve registrare un centesimo turno per entrare in tutto. Esatto, esatto, quello che non è... c'è mai capito, perché la 27 non va a funzionare con un sistema operativo come funziona tutto in tutto il mondo. Se tu parli meglio tu ascolti, se non ti va ad ascoltarmi cambi canale. Se la cosa viene finta di parlare tu non puoi parlare. E che rischio ci sono? Tu ma dico, sul ponte c'è un unico canale o ci sono tanti canali? Allora, un unico canale che è però bene. La regala allora, fare l'animatore significa lavorare con serietà e pazienza. Chi non ha pazienza non le conviene diventare animatore. Ma non che non trasmetti direttamente per utilizzare i punti. Anche in diretta la stessa cosa. Cosa vuol dire trasmetti senza usare i punti? Non ti capisco, vabbè. È la stessa cosa. È la stessa cosa. Per entrare in quella frequenza ci vuole un attimo, quindi io devo avere il tempo di registrarti, sapere chi sei, con chi sto parlando, e ti dirò ok. È inutile che fai di sì. Tu con la frequenza parla solo, nessuno ti risponde. Gappa, gappa. E tu, Natale? Roberto, carissimo, è diverso, non è come qua, no. Uno bravo da sobrallato. No, vabbè, tutta un'altra cosa. Prima di entrare in quelle bande di oltre che devi avere patente e tutto, devi dare molto, ma molto ascolto. E devi sapere come comportarti, non è che tu entrai così, no, all'acqua di droghe. Lì quando sta facendo acqua devi sapere esattamente cosa sta facendo. No, senti, quella cosa lo stavo sentendo, ci siete molto preparati, ho sentito. C'era questo che qualcuno si lamentava perché è stato almeno 3 minuti consecutivi parlando. E quindi le domande non riprendono subito perché non è che ci sia un professore lì, è la legge che ti impone quello, capito? Non importa il fatto che c'è tutto un sistema operativo diverso, perché man mano che parli di registrare. Devi sapere con chi stai parlando e con chi non stai parlando, c'è l'ora dell'ingresso, c'è l'ora dell'uscita, devi segnare tutto, ma chi non sa come ci si comporta, perché tanti anni ha seguito QL, infatti partecipa anche ai compiti, e lui è abbastanza preparato in materia, ma chiunque, qualsiasi essere seguito QL, di tanti anni di esperienza non sa come ci si comporta. È un altro pianeta, vabbè, non è... Anche qua vi ascolto, aspetto che mi rilancino, anche dopo mezz'ora, dopo la mattina, niente. Sono talmente abituato che non ci muovo neanche, capito? Ma non posso entrare per dire come sta Luca, no? Aspetta un attimo, scusate, se non vai chi così ti abbia ragione dalla patente, manco 10 minuti di una raga, capito? Le cose si fanno in frequenze assegnate per fare le prove, le chiamate si fanno in frequenze assegnate per fare le chiamate, e i question si fanno in frequenze assegnate per fare il question, è tutto assegnato, tu non sei libero di andare dove ti pare, ti piace, ci sono le frequenze assegnate per parlare, le frequenze monitor, le frequenze punti, le frequenze comode, è tutto assegnato dal ministero, quindi tu non sei libero di fare quello che vuoi come fai qua nel 27, non è che assoluto. Le porte chi ripaga le spese dall'associazione? Eccezioni hanno i punti, eccezioni ARI. Noi abbiamo i punti come ARI di Sassari, la sezione di Alghero non c'è nessun ponte, la sezione produttore c'è il ponte. Però siccome siamo tutti alle opere, ci offriamo tutti degli stessi punti, non c'è distinzione, però i punti assegnati che noi abbiamo a Monterasso sono tutti della sezione di Sassari. Ma noi dove c'è stato a Monterasso o ce ne sono altri? Montanaso è il punto di riferimento dove ci sono tutti i ripetitori, sia RAI, TIM, UNITAR, sezionari, carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigile fuoco, tutte le forze dell'ordine, ANAS, Baracelli, Forestale, sono tutti a Montanaso. E poi noi ci spostiamo nelle varie portazioni che il Ministero ci assegna, come abbiamo la portazione a Rosio, abbiamo la portazione della Nuova Monteleone, chiamato il ministero, non è che fare un fatto di figuraggio. Addirittura a me, qua, mi hanno proposto qualche anno fa se potesse volevo mettere un ripetitore nel mio prato, sempre inerenti a lavoratori. Ho detto no perché mi disturba la mia missione, capite? Quindi non ho accettato. Siamo andati, c'era un metro di neve, non si poteva neanche camminare. Ma capite che anche gli utilizzano la sindacale della Diamond, basta, poi c'è qualche direttiva di quelle log periodiche, basta. Ah, non usano pannelli, stanno nella pannello, dico, quelle, tipo come usa la RAI per le stazioni di FM, diciamo, quei pannelli radianti. La RAI compra, piazza queste parabole, fa, noi controlliamo, vabbè, noi da un'antenna facciamo 10 linkaggi e parliamo in tutta Italia con i vari link, le varie cose, capito, ripetiamo il segnale dalla stessa radio, entra, esce, su quella, su quell'altra, sperimentazioni. Ma magari ci sono limiti di potenza nei punti, come per dire la potenza che può avere sulla casa sua, così possono salire anche una di tipo la potenza. Le potenze sono tutte uguali, quello che ha segnato al ministero lo dobbiamo usare, capito? Io posso usare fino a 500 watt, e il ripetitore è inutile che tu lo metti a 500 watt perché bruci la cola, quindi i ripetitori e i link più bassi sono meglio è. Posizione ideale, perché la potenza non serve neanche tantissimo. Un solo mappo vogliono omologarsi i ponti, poi un ponte con 21, capito? Ci sono delle leggi apposite, non è così Robonno, è tutto roba, già ne sa qualcosa a Claudio. Io sono salito sull'imbara con un amico, una volta dovevamo fare un lavoro sul ponte, ti so dire che appunto sono omologato, se no non puoi neanche più fare, sono non omologato, ecco qua un ponte mi vale 25 milioni, no Agostino? Sì, lo so, sì, lo so, ma noi facciamo tutto, tutto di cose nostre, capito? Tutto, come ti ha detto Natalino, tutto omologato, tutto seguito, noi abbiamo un carissimo amico che allora questo nome di Natalino che si occupa di queste cose e quando si occupa di queste cose, siccome è un grandissimo tecnico con la G maiuscola, sa quello che vuole fare, quello che fa è fa tutto lui, insomma, non ci sono problemi. Vabbè, se sa quelle cose deve essere almeno qualche ingegnere o qualche cosa del genere, perché deve avere una grande esperienza, a costruire una cosa del genere non è da tutti. Vieni con noi, sono cose molto belle, con molta esperienza, perduta, con l'antenna a campeggio, gruppo elettrogeno, le radio messe in un tavolino e l'antenna puntata nella spiaggia, così messa, cioè collegare tutto il mondo, così in, proprio in fase sperimentale, sono cose molto belle, sono cose, bei ricordi, eccetera, capito? Intanto, ai tempi di Marcuse si facevano queste cose. Beh certo, anche quelle sono cose che noi spesso facciamo, adesso chiaramente sono cose che facciamo nel periodo estivo, nel periodo di mai non si possono fare, però sono cose molto belle, adesso ne stiamo organizzando una spedizione che credo che sia, vabbè, non posso dire qua in Tunisia, però siamo già in contatto, preparazione, tutto per fare questa, questa spedizione. E poi, poi si vedrà, insomma, avanti Gianni. Ciao Claudio, ci sono altri amici, non più Roma, avanti. Già lo sappiamo, sì, tu non c'è problema, stiamo parlando di cose tecniche, tecnicamente all'avanguardia. Dai, c'erano bei guai, c'erano guai tantissimo, nelle varie punti, nelle varie sezioni, nelle varie cose c'è a lavorare, perché ci sono incarichi particolari, c'è il tecnico del computer, dovrebbe settare, fare, organizzare programmi, noi abbiamo anche il programma del Packet dove è un programma internazionale, proprio in tutto il mondo, dove c'è tutto il mondo collegato, io via computer tramite la radio faccio attività via computer, si vede per esempio tu sei nel canale 10 a 27.085, io metto il mio spot lì dove dico che sto trasmettendo a 27.085, nel caso ci fosse qualcuno che mi vuole collegare passa lì e mi chiama. Capito? Sto dicendo 27.085 per dire una frequenza in 40 metri, quindi vengono lì, ti chiamano, vedono lo spot della Sardegna e dicono caspita c'è un sardo in 40 metri, andiamo a collegarlo. Cioè, tutto sempre collegato al sistema operativo, via sempre trasmissione dati, insomma, e tutto quello appartiene sempre al mondo della radionatura. Molto bene, avanti Natale. Allora, forse in estate, se mi sento bene, siccome c'è la barca a Sentino, andiamo a attivare un'isoletta, io e Salvatore, andiamo e fermo le per tutti in Calusa. Sì, andate, io lo so, Salvatore ci vuole permesso per fare certe cose, quindi non è andate, ci sarà una spedizione come quella che dobbiamo fare noi tramite la sezione di Alghero, dove stiamo organizzando una grandiosa spedizione per attivare un'isola che ancora non è stata attivata, come ultimamente la sezione Aria ha fatto un'attivazione dei castelli, quindi io ho visto tutta la documentazione, mi ha fatto vedere un amico, eccetera eccetera, sono cose belle, sono cose che fanno sempre parte dell'attività radioartistica. Qua purtroppo queste cose non si fanno, non si possono fare, perché il Ministero delle Telecomunicazioni ha sempre deciso che la banda cittadina debba rimanere una banda cittadina, di non parlo e non aggiungo altro perché altrimenti poi mi sputtano io stesso. Comunque, se invece aveva già dagli anni passati proposto il caro ministro delle telecomunicazioni qualcosa che potesse tirar su e far valere anche la banda cittadina, forse a quest'ora molti CB sarebbero appartenuti al mondo della radioamatori, invece hanno imbigliato la 26 di qualche banda di Bucaccioni e alla fin fine si sono tuffati e ce ne sono tutti andati. Io ho resistito come tanti altri perché nella mia associazione praticamente erano tutti ex CCB, perciò abbiamo resistito e siamo andati avanti. Molta gente ha mollato perché dice giustamente, vabbè, cosa me ne affutti di fare anch'io a fare da qui e là, perché il ministero ha sempre reclutato la banda cittadina, una banda dove non c'era niente da poter pazienza. Vai Gianni. Anni addietro se ne facevano di cose, cavalcata, rally, questo, quell'altro, sono state anche delle manifestazioni, io adesso ho un po' tutto vuoto perché non c'è associazione, quindi dove poter appoggiarsi le persone non lo sanno, per cui non fanno richiesta, ma prima si lavorava, cavalcata, candelieri, di tutto si faceva. Lì ti devo correggere, non è perché non c'è richiesta, perché non si può più fare, non si può più fare. Il servizio Anelli l'ha fatto con punti, l'ha fatto con apparecchiature VHF, capito? E quindi ci vuole la licenza, quindi tu non puoi partecipare perché non c'è l'elevatore, quindi vengono coinvolte tramite le lacci, vengono coinvolte le varie associazioni amatoriali, come Porto Pevole, le salate di Albero, e quindi partecipano agli amatori e vengono anche pagati, punto. Poi il sistema di cavalcata e di coso, cioè delle manifestazioni praticamente che il comune faceva, il canale 9, che allora era un canale operativo dove si potevano operare, e fare volontariato, non protezione civile, perché la gente ha confuso protezione civile e volontariato. Quindi per la protezione civile è stato varato un decreto dove devi essere lo stesso animatore, quindi iscritto all'associazione aria, automaticamente la prefettura ti rilascia il tessino di protezione civile, a meno che non appartieni a un volontariato tipo 118, come tutto il volontariato appartenente al soccorso sono parte della protezione civile, quindi anche lì devi essere iscritto ad un'associazione, come hai iscritto tu, come hai iscritto Natalina, eccetera. E quindi tu fai un servizio di volontariato per quanto riguarda il soccorso. Io invece faccio un servizio di trasmissione, quindi a parte la protezione civile, perché sono un radioattore, tutto lì. E poi per quanto riguarda la cavalcata, le altre cose ti stavo dicendo, il ministro della telecomunicazione importa il 43 MHz, tu sei benissimo di cosa sto parlando. A quel punto lì l'associazione di Sassari, comandata da allora dal vecchio Giovanni Freccia, dal vecchio Torre La Verde, dal vecchio eccetera eccetera, non faccio più nominativi, diffuse, noi compriamo, spendiamo centinaia e centinaia di milarie per comprare i portatili 43 MHz, quando una volta all'anno ci chiamano per fare una manifestazione e ci danno 100 lire, non ci conviene più, capito? Allora è stata proposta, e mi ricordo, ti parlo perché l'ho vissuto, allora è stato proposto, voi ci comprate le apparecchiature e noi garantiamo il servizio. Il comune ha fatto picche e colì che i signori che avevano il coso, la sede di protezione civile, di tutto quello che c'era per fare queste manifestazioni, ha detto, signori Billy, quindi nel culo, soldi non ce l'avete, apparecchiature non ce l'avete, arrangiatevi con i rivoltori, non ce ne frega niente. Tanto vero che noi rivoltori partecipiamo solo ai rilli della cavalcata e dei cacchi del comune, non ce ne frega assolutamente niente. Anche a Bacchini c'era, Bacchini. Esatto, e in generale gente già, ma è stato tutto sciolto solo perché il ministero ha imposto delle leggi, capito? Imposto delle leggi. E quindi è chiaro che non conveniva più fare delle cose a gratis. Come io spendo quattrini per comprare, per tu mi imponi che io devo usare i 43 MHz perché chiaramente l'associazione aveva una licenza, quindi andavano assegnate quelle frequenze. Meglio rimbaga, dice voi, e noi spendiamo centinaia e centinaia di milioni per avere una manifestazione all'anno. Quando ci impegni tutto l'anno, noi compriamo le apparecchiature e con i soldi che tu ci dai ci paghiamo le apparecchiature. Questo non è stato fatto, e allora l'associazione che c'era ha mandato a fanculo a tutti. E poi bisogna fare anche una concessione per il 43, non è così, no? Quando c'è la trovata di apparecchiature di più, si paga parecchio per l'apparecchio, capito? Sì, figurati, lui è Giancarlo, no? Cosa gli è successo? L'hanno osservato il lettore, perché loro usavano prima apparecchiature non omologate per loro, capito? E un controllo del radio gli ha sequestrato tutto e gli ha messo allora 6 milioni di multa. Allora noi per farle recuperare un po' di soldi li abbiamo fatto vendere. e con questo abbiamo comprato le prime radio 43 MHz che credo ancora siano nelle ambulanze. Ma Giancarlo, chi stai dicendo? Giancarlo Genchi o Giancarlo Salvatore? No, quello non è Giancarlo, quello è Gianpaolo. Questo c'è Giancarlo, questo di Sassari che si occupa lì del dove di tutto. Sì, io ho detto io a Torri, lì, per le radio. Perché due se le hanno dimenticate. Se non qua. Non lo so, quindi vedi bene che parliamo la stessa lingua, già, capito? E lì, chiaramente, anche loro sono visti braccati, hanno avuto spese, perché mi ricordo, già che non so come fare, come facciamo, solo in casa non ne abbiamo. Eccetera, c'è il comune, soldi non ce ne va, quindi va bene, non ti preoccupare, io farò ancora, una la prendo io, una la prendo io, due le diamo a un'altra persona, e avevo recuperato un po' di soldi per comprare qualche radio per iniziare a trasmettere i 43 MHz dopo che avevano fatto la licenza proprio, io lo so, ci vuole la licenza, sono frequenze assegnate. Assegnate sono frequenze civili, capito? Quindi vanno assegnate a dei gruppi che fanno determinate cose, tutto lì. Va bene. Hai capito vabbè, come funziona? C'è un mondo di cose che bisogna fare, un mare di cose che bisogna fare, seguire determinate cose, leggi, controleggi, frequenze assegnate, non assegnate. Fare le notte, ti giuro che a volte preferisco fare più due chiacchiere qua che senza offesa per chi mi ascolta, perché è un lavoro, io quando faccio attività è un lavoro, devo avere il computer acceso, scrivere, fare, parlare, poi entrate, uscite, a chi ho trasmesso, con chi ho trasmesso, chi era, chi non era, è un lavoro e ti impegni anche tantissimo, perché se sbagli e ti viene un controllo devi dire come mai tu a quell'ora, per dire, può capitare, noi abbiamo registrato la sua emissione a 7057, come mai lei qua ha segnato a 7080? E quindi, come mai, forse ho sbagliato, forse ho 57.80, io ho scritto 7080, cioè l'unità non fa tempo, è una cosa allucinante. Tappa, la cosa che mi meraviglia, visto che stai dicendo questo fatto la ripetizione, che lo fanno un po' distrettato, diciamo, lo Stato, diciamo, il Ministero, non capisco come mai non mettono in modo alla gente di informarsi dalla normativa, eccetera, eccetera, e anche anziché dalla chiunque sia questa concessione, me comprese, lo dico, piano piano mi sto facendo una cultura, però c'è un sacco di gente che non ha proprio nessuna idea di come funziona il discorso legislativo, eccetera, eccetera, per cui secondo me sarebbe bene almeno un minimo di patentino darlo a tutti quanti, fare un esame semplicissimo, tre domande, tre cagate, però sarebbe bene secondo me farlo anche nella CD. Scusate, ma tanto siamo qui, poi pian piano ognuno dice la sua. Vabbè, te rispondo subito. Il ministero che cosa ne frega? Tu devi avere un barattino da 5 watt, con un microfono normale, un'antenna, possibilmente, io spero che non esca con la legge perché vogliono tagliare anche quello, come vi ho già detto. Un'antenna, un quarto d'onda, non direttiva, non direzionale, nulla, un'antenna verticale, un quarto d'onda e un barattino. Allora, dal canale 1 al canale 23, oggi dal canale 1 al canale 40, ce ne la futi, cioè, che cosa devono insegnarti? Tu c'hai 40 canali a disposizione, senti a Claudio, una là, e gli dici, ciao Claudio, come stai? Oh, tutto bene, perfetto, hai buttato la patta asciutta, cosa hai mangiato? Hai scorreggiato? Sei uscito in macchina, ti hanno fatto la macchina? Questa è la banda cittadina, questa è la cultura che noi ci dobbiamo fare alla banda cittadina. Quindi al ministero non ha tutti nulla di quello che stai facendo tu, di quello che stai facendo tu, capito? Al ministero non interessa che tu paghi la tassa di concessione per avere quella radio. E tu guarda, non mi subiti bianchi. L'importante, la legge dice sempre che tu non rechi danno agli altri. Nel senso che anche col baracchino tu non devi recare danno agli altri telecomunicazioni. Quindi televisori, telefoni e belle frasi. Usare quello vicino alla banda laterale. La banda laterale va in 40 gradi. Se parli in 40 gradi, si trova tranquillamente, quindi allora non è a fare niente. Non seguire queste cose. Se poi sono praticamente superato la legge, dove le apparecchiature vecchie, le vecchie generazioni, rimanevano omologate, eccetera, eccetera, quindi tutti hanno iniziato a prendersi un baracchino con più insomma, caratteristiche tecniche, no? Diciamo così. Però siamo arrivati lì, non ha cambiato niente, mio Robert, non ha cambiato niente, quindi al mese non ne ha fatto nulla. Quando tu non vecchi danno, hai il tuo baracchino, fai le tue chiacchiere con i tuoi amici, tutto va bene, non ne frega niente. Il fatto delle altre frequenze lì con le sintonie continue già è un altro discorso, perché lì tu hai una patente di stato data da loro, capito? E quindi chiaramente loro si devono tutelare, perché un radiomatore ha delle regole ben precise da seguire, deve parlare in quella frequenza, quindi stiamo parlando di frequenze non più canali, in quella frequenza abilitata alla trasmissione, ci sono le frequenze abilitate alla ricezione, come ti stavo dicendo prima, ci sono le frequenze abilitate alle torre. Tu non puoi attendere la radio un attimo in litigiati, no? Ci sono frequenze abilitate ai collegamenti di ex, e Natalino lo sa quali sono. Tu non puoi andare a mettermi Gianni, io faccio a 7050 per dire, non ci puoi parlare lì, perché da quell'ora a quell'ora 7050 è abilitata per fare collegamenti di ex, contest e così via. Quindi devi conoscere anche quelle frequenze, quelle attività operative, non è che tu puoi andare sui litigiati. E quindi loro limitano a tutelarsi, capito? Lì si tutelano perché ti danno delle direttive ben precise, se tu sbagli, puoi andare anche a fine galera, puoi andare a intercettare cose che tu non puoi andare a intercettare, capito? Vabbè, qual è la differenza? Quindi, quando mettono qualcosa in atto in più nella banda cittadina, non l'hanno mai fatto, io ho 30 anni che faccio radio, e 30 anni che faccio radio in generale, sia CB o Radio 4 Ore. Perché da 15 anni faccio la radio, da 30 anni faccio CB, quindi sono 30 più 10 più 15 fa 45, perciò è normalissimo, guarda, è normalissimo. Non ho mai avuto nessuna, ho sentito iniziative nella banda cittadina, mai poi mai, c'è un casino. Tappa, le prendi tu Gianni? Security X, sono la frequenza. Buonasera. Questo è uno dei pochi pirati che è rimasto vivo a Sassa e non l'hanno mai ammazzato. Cosa devi fare? Perché ci vuole fisico per ammazzare a me. A me mi batto un pezzo di bastone, è una cosa. No, a te ti batto un pezzo di bastone o una cinghia? Allora, una cinghia, esatto, bravo. Ma stamattina l'ho erogata con uno di questi punti di giama, di quelle faccette non si vedono in plastica, mia, non si studia. È vero, ma poi, quello non taglia, ma non so fare a studiarlo. Lo sai che anche adesso sono un po' sbagliare, c'è la polizia americana che sta lottando quel sistema lì. No, i militari lo usano per questo. Che dire, stavamo parlando del vecchio. tempi, quando si faceva la cavalcata, eccetera, eccetera. Te ne ricordi quei tempi? Allora, io ho conosciuto dei CD della Cison, se non mi sbaglio, che avevano un portato e seguivano alcune cose. No, non facciamo confusione, erano CD e facevano anche volontariato al Cison, ma non erano unificate le due cose. Sì, così chiamati Cavalieri di Malta. Sì, c'era quello che ti ho ucciso, che c'era prima, dove c'era anche Freccia, tutti quelli lì, capito. Sì, prima c'era un altro ucciso, gli esistono altre persone, adesso questo qui è un ucciso diverso, va. Sì, infatti andavamo, insomma, eravamo di passaggio così, vedevamo a Giovanni e ci fermavamo a salutarlo, poi niente di più, niente in particolare, anche se noi avevamo la varia macchina, insomma, quindi fatti nostri, dai. Scusate un attimo, è un attimo andato per me, le vado subito. Bisogna farli rispettare. Ricordate che quel canale tantissimo. Io sono preso la possibilità anche dei camionisti di fare questo. Non sono entrato perché non me ne ha tutti nulla. Però stiamo molto attenti, perché se disgraziatamente un controllo così di passaggio visita qualcuno in questo sul canale 9, c'era una multa dai 13.000 euro e dai 3 mesi ai 6 mesi di galera. È giusto che sia così, classe. Anche nel marino, per esempio, il 16, non è che tu puoi fare il questione nel 16. Tu dove chiama? E da molti poi ce ne sono altri canali. Chi se non c'è un canale, lì c'è vada, è blu. Capito? Il 9 è considerato come il canale 16, uguale. Esatto, il canale 9 è un canale della banda cittadina di protezione civile. Nel modo più assoluto si può fare questione, ma proprio nel modo più assoluto la cosa vietatissima è un canale di chiamata, perché nel canale 9, le varie stazioni di protezione civile in tutta Italia hanno il canale 9 canale d'emergenza, capito? Quindi anche la nostra prefettura, che è la sala di protezione civile, ha il canale 9 attivo, la radio portiera ha il canale 9 attivo, la capitaneria di porto e tutte le circomari, quindi circomare Alghero, circomare Maddalena, compromare Porto Torres, hanno il canale 9 attivo. Quindi non si può nel modo più assoluto fare questo sul canale 9, nel modo più assoluto. Giustamente, come ha detto Mattarino, il canale 16 è un canale di chiamata, è tutti sposti, capito? Perché li chiama compromare Porto Torres, circomare Alghero, circomare Maddalena, io li sento, capito? Chiamano, poi ti danno, passa sul canale 26, ti sposti sul canale 26 e parli con loro, parli con chi. Come prescritto è stato assegnato il canale 8 marino, canale 8 marino, lì loro sono abilitati a fare chiamata e comunicazione e quindi nessuno dice niente. Queste sono le leggi che purtroppo molta gente non sa o lo sa e non lo vuole mettere in atto, capito già? Canale 9, canale di emergenza, io lo usavo sempre per incidenti stradali, quando questi incidenti, roba del genere, che prima non c'erano ambulanze, cose, portata di mano, da fatto le terapie. E ho fatto una volta un incidente stradale brutto, l'ho visto sul ponte di... sul ponte che va a Marchetto lì. E purtroppo è stato una da fare, è morto quella ragazza. Quindi ti ricordi perfettamente, io parlo degli anni passati quando era attivo. Adesso non so se c'è ancora emergenza radio da parte delle varie associazioni, però è sempre proibito parlare sul canale, fare questo sul canale è proibito. Purtroppo è così. Quindi cioè, la radio è bella, ma bisogna anche, secondo me, a volte prendere le carte, documentarci, vedere un pochino quali cose si possono fare e non fare. Come è vietatissimo, un'altra cosa vietatissima, è nel modo più assoluto mandare musica dal canale 1 al canale 40, perché la musica praticamente è un mezzo di trasmissione che fa parte della SIAE. Quindi voi sapete tutti cos'è la SIAE, è la tassa che si paga per ascoltare e per mandare musica, e quindi è vietatissimo perché è un mezzo di comunicazione anche quello. Quindi quando tu stai mandando musica in frequenza stai mandando nell'etere, quindi nell'aria, stai mandando musica, e quindi è vietatissimo anche quello, non si può nel modo più assoluto, capito? Sì, perché ci sono i diritti d'autore di mezzo, qua. E ma molta gente non le sa queste cose, no? Io queste leggi le so tutte, capito là. Però molta gente non ne ha tutti nulla, così. Dopo quando si trovano l'avanzata in testa, dicono perché. Ma queste sono leggi, Natali, hai detto bene, ci sono i diritti d'autore, quindi se noi paghiamo i diritti d'autore perché nel mio bar io voglio il televisore o voglio mettere musica, lo pago un prezzo in regola. Se poi io mi metto qui a casa che mi ascolta tutta la Sardegna per dire cazzo la portante al canale 10 e mi metto a mandare musica. dire, la musica fa danno perché splattere i canali, come può essere il CV doppia, no? Quello lì arriva, più quello lì, il segnale che la voce, figurati. Grandisco, grandisco, poi io voglio, beh signore, dai, sono entrato a salutarvi, mi ha fatto piacere ascoltarvi 5 minuti, adesso me ne vado a nanna, sono domani, mica ballacchia, eh. Babbo, ciao, divertitela, buon corso, ciao a tutti, riprendi qua. Grazie, non sentivo, e invece sono una giornata molto molto tranquilla, non ci sono stata mai ragione perché sono preparato lo sciopero, domani c'è sciopero. Nel nostro settore idrico, sì, domani mattina praticamente caffè 7 ore, ma poi mi entrano in ufficio e ci abbigliano i dolci e i gatti, quindi non ho proprio assolutamente niente da fare. Ciao a te, buona notte, stammi bene e ci sentiamo nel prossimo. Gianni, riprendi e vedi un po' se è rientrato Roberto, va? Roberto, sì sì. Roberto! No, ragazzi, ti infatti, buon tutto per domani, Alex Ruffine. Sentiamo. Cara, e lì cosa lo vedo? Caro Claudio, è una frequenza di serie B questa qui, praticamente, nel senso che l'hanno trattata troppo male. Non so, Antonini, io capisco che tutte le cose vengono trattate in una certa maniera, però in il mondo della radio io essendo a posto di chi comanda l'avrei unificato tutto, perché non è assolutamente vero che fare radio nella banda cittadina o farlo in bande amatoriali ci siano delle grosse differenze. Quando uno è una persona educata, requisiti di legge, certamente degli accorgimenti che servono per poter fare il radioamatore, avrei unificato e fatto sì che la banda cittadina, quindi gli 11 metri, si unificassero almeno ai 10 metri e che quindi un CB avesse la possibilità di fare anche attività di ex o qualche nuovo amatoriale anche in 10 metri. Questo non mi sono mai concesso perché secondo me chi appartiene banda cittadina è un bandito cittadino, in parole poche. Ebbene, sì, così ci stiamo comportando, non è che abbiamo tutti i nelle bande radiomateriale se si mandi qualche fiscata in quelle bande lì fanno un macello della Madonna, perché non ci sono regole, invece nelle bande dove vai tu le regole ci sono, e che regole? Noi come me, come te, come Gianni, come tutti siamo andati a scuola, ci hanno insegnato a leggere e a scrivere e i nostri genitori ci hanno insegnato l'educazione. Se una persona qualsiasi ha fatto radio per tanti anni, nella 27, ha capito che il mondo della radio deve funzionare in quella maniera, quando passa dall'altra parte sa bene che fino a quando ha fatto la banda cittadina ha fatto dalla prima elementare alla quinta elementare. Quando lui passa dall'altra parte fa dalla quinta elementare, quindi comincia a fare le medie, capito? Quindi lui sa benissimo che dalla prima media alla terza media ci sono delle cose ben precise da seguire e da studiare. Quindi non è vero assolutamente niente e dobbiamo farle tutte le faccio. Se uno è maleducato dalla nascita, rimane maleducato fino a quando muore. Se però uno è maleducato perché vive nella maleducazione, cambiando naturalmente zona, come ho detto ieri, il salto di corsia, diventa anche una brava persona. Questo è il mio punto di vista. Automaticamente impara a fare radio come hanno imparato gli altri. Questo è quello che io penso. O no, Gianni? Come si chiama il bar? Ma sai che così? Caramba, caramba. Comunque, mi stavo dormendo, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so, perché lo so quando senti questi così belli rilassati e belli tranquilli come tre calamagliati, ma è stato Roberto che ha tirato fuori l'argomento, domande della telebella, quindi lì abbiamo preso l'argomento e ce lo stiamo portando qua. E comunque così, non c'entra a fare. Quando uno piace fare radio la fa il 27 correttamente, la fa dagli altri fatti correttamente, come praticamente ci hanno insegnato. Poi se uno è maleducato qua, nata lì, è maleducato anche di là, perché tu sai benissimo che tu ascolti moltissimo le mande amatoriali, quindi vedi bene che ci sono maleducati anche lì, però vengono lasciati in disparte, non vengono neanche cercati e quando capita si segnalano e si mettono in disparte e si cerca di farli capire che non funziona così. Qua invece ci sono i maleducati, ci sono le persone serie, ci sono le persone capaci di fare tanto e magari non hanno voglia di perdere 3-4 mesi, 5 mesi di studio per avere anche un altro tipo di licenza, un altro tipo di apparecchiatura. Vabbè, infatti, anche quello è vero, perché c'è gente qua che è veramente capace, gente che l'elettronica, la mastica veramente, ma purtroppo non ha la voglia di fare l'ollare, nessuna, non ne ha fatti nulla, capito? C'è gente anche che ha la passione, studia, si prende questo pezzo di carta e allora può operare dove operi tu, capito? A me piace tantissimo e sto cercando di fare qualcosa. Ma sì, una persona come te e come tanti. Io dico sempre che il mondo della radio è vasto e c'è sempre da crescere, perché io nonostante ho la patente già dal 1993 ho sempre tante cose da imparare, tu lo sai benissimo, perché non è schiacciare un pulsante, sei sul canale 10, chiacchieri, dici la tua, si fanno questi obbligli e questi obbutti, però c'è lì un canale, giri, ti. Là lo sai come funziona, c'è da lavorare, c'è da fare, capire, vedere, non è un lavoro, io lo reputo un lavoro, tanto è vero che non ho grandi passioni di DX come puoi avere tu e tanti altri che conosci tu e conosco io. A me piace fare radio in questa maniera, quando capita che voglio spostarmi, andare in 40, in 80, in 10, in 20, vado a questi livelli. Trovo gli italiani, quelli della rimattura del continente, facciamo due chiacchiere, due qui, due là, se capita devo fare un collegamento internazionale lo faccio, però non ho questa grande passione di stare lì giorno e notte per fare collegamenti, non ho mai avuto questa passione, né da prima e neanche da adesso che sono rimasto, non mi frega assolutamente niente. A me la radio piace farla così, scambiare le chiacchiere, le opinioni, bisticciare con la gente quando devo bisticciare perché non ho il piede nella lingua, però mi piace farla così la radio. Poi c'è qualcuno che non apprezza le mie doti, le mie capacità, anche con le grandi mature, però io così faccio radio, a chi non le piace non me la fotte nulla, ognuno è libero di fare la radio come vuole, sempre nei modi dovuti e nei modi che la legge ti consente, però ognuno è libero di fare la radio come le piace. Becca? Registrato. Certo, cosa vuoi fare? Ognuno la fa come crede. Neanche a me piacciono tanto gli ex, anche se sono soddisfazioni. Quando avrò una patente qualcuno lo vuole fare anche io, di più, mi conto, però a me quello che piace di più sono gli esperimenti, vedi? Esatto, adesso facciamo entrare il vecchio, perché certo, gli esperimenti fanno parte del mondo radioantistico, ed è la cosa più bella che possa mai esistere per qualsiasi tipo di operatore, sia per CB che per radioamatori, perché al mondo d'oggi sa per fare esperimenti, parlo di componentistica, parlo di costruzione, è bello per tutti, perché uno quando è capace a fare qualcosa veramente è un operatore radio, perché io non mi va ci sono tantissime frequenze che gli SWL, a noi arrivano montagne di QSL, le SWL che già ascoltano nelle varie sezioni, seguono praticamente i QSO che si fanno in 80 metri, 40 metri, di vari operatori tecnici veramente specializzati nel mondo della radio. Fa piacere che sa che qualcuno ti segue tutto lì. Avanti Roberto. Sì, sono rientrato, no, non me la faccio la trazione, c'è cioè, interessante. Volevo dire una cosa, ma come la concessione si paga come il CB o il diverso, Claudio? In base alle licenze, adesso sono state unificate, quindi praticamente io pago 12 euro per la 27 e 12 euro pago per la licenza, la patente amatoriale. Ma quindi non ci sono altre tasse particolari o cose diverse? No, assolutamente. C'è solo il rinnovo ogni 5 anni, devi mandare se hai cambio domicilio, se hai ti chiedono dei documenti nuovi, degli aggiornamenti, delle cose, ma niente di particolare. Potrei fare l'esame, quanto costa per fare l'esame? Guarda, per fare l'esame mi pare che ci vogliano oggi, come oggi, tra documenti, marche, fotografie autenticate e bim bum bam, ci vogliono una cinquantina di euro. Giappa, giappa, quindi è una cosa, a parte lo studio, dico, non è così esoso mettersi, diciamo, su quei piani, no? Sì. No, non c'è il radio. Dovrebbe essere lui. No, Fabio. Prova a vendere per menti, sì, Mario. Allora, devi riscendere lei. Prova a vendere per menti, sì. Segnale 9 più 20. Radio non ne hai. Zero completamente. Ma non mi ascoltate? Mi sembra strano. Scusa, siamo sordi. Adesso ti ascoltiamo. Se prima non lo sto dicendo, evidentemente c'è qualche problema. Comunque Gianni, tu devi aver detto togliti le calze e fai con i piedi scalzi e non ti viene un zonno. Tu pensa che io mi ho salvato sul computer qua tutti gli esercizi di quello dove andavo a scuola io, capito? In modo che se capita che abbiamo qualche sezione, qualche cosa, io salvatore abbiamo intenso di formare nuovi radioattori. Sì, questa è un'iniziativa bella, sono cose belle che vanno menzionate a chi vuole che le cose vadano in una certa maniera. Queste sono cose belle, avete fatto bene. È chiaro che poi chi vuole avere un'esperienza di quel genere può dire, beh, siccome tu l'hai già fatto, possiamo fare questa cosa così, eccetera. E tu dai delle direttive, delle dritte, perché hai già avuto la tua esperienza in quel campo. Va bene, Natale, sono tutte iniziative buone, tutte iniziative che fanno sì che la frequenza possa andare avanti indistintamente dal fatto che noi trasmettiamo la banda cittadina e gli altri trasmettono in banda HF. È sempre lo stesso mondo, è sempre il mondo della radio, fare radio, divertirsi, applicare delle regole quando è necessario, quando no, fare radio, far sì che si parli, che si argomenti, che ci sia un po' di tutto in generale, ecco, tutto lì. Vai Mario. Ecco, appagata, ma di che cosa sto parlando, sessione? Stiamo parlando un po' in generale del mondo della radio, di quello che può darti la radio, o ti dava la radio ieri, quello che ti dà oggi, sia la banda cittadina cosiddetta che quella amatoriale. Stavamo facendo un po' delle statistiche in generale, così a domanda e risposta di Roberto e tra me e Gianni e Natalina, insomma, ci siamo ricordati un po' le vecchie caratteristiche tecniche che inizialmente il Ministero delle Telecomunicazioni aveva messo in atto per quanto riguarda le nostre emissioni, tutto lì. KK, vai Gianni! Gianni Dromi! Gianni Magni Dromo! Gianni Dromi! Gianni Dromi avvio! Allora vedi che già dormito, lascia perdere. Gianni Dromi, domani. Vai Roberto. Poi micidiale, 10 secondi prima stava parlando la voce di un medio di golfo, deve essere un orologino in capo, pum, a un certo orario di Dromi. In Cataletti è andato, cazzo. Cazzo, perché è strana questa storia? Ma lui lo prega perché c'è Marachina in camera da letto e lui sta modulando ed è curicato, capito? È per quello che gli si chiudono gli occhi in fretta. È perché io non sono in camera da letto, Mario. Sono sul comodino al baracchino. Il filo non sta passando a salire dal letto, del microfono sta parlando. Ma non è per questo che mi devo addormentare. Secondo me già non glielo fa la malattia quella. Qualcosa di sonno, di gaggi così, bru? Allora, seppure, ma non credo che sia per via di quella malattia. Perché io ne conosco tanti e sono mille pippanti. Mario, c'è stato uno che chiamava Mario. Purtroppo Gianni gli fa quell'effetto, non so questi dici. Anche la stanchezza, perché Gianni fa un lavoro abbastanza pesante. Vabbè, c'è uno che chiamava Mario, registrato. Avanti. Ciao, salutoni, questo è Luca Flippa se non sbaglio. Sì, allora grazie, di Mario, non avevo passato questa? Questo è quell'umbriacone tragico di Pomponio. Ma mi chiamo cosa, come mai a me non mi sente Antonello? Cosa? Come mi sente Antonello? Santiago VI ti sento. Ah? Santiago VI. Che c'è così il nostro qua? Ecco cosa vuol dire, mi sono occupato una pericolosa, un cubo, 140, domani. Ma non c'è il segnale qua, Santiago 3, è 9:10. A dove puoi Mario a cacciare? Non mi sentiva lì da te. Lo so, già non sono accorto. E perché non mi sentiva? Ma la lampenna già la classe. L'antenna di cui sei Mario, già lo stanno sentendo Claudio, io già sono la capolta. L'antenna smarrata. Ma tu non mi sentivi Mario stasera quando stavo parlando con te lì? Negativo, ho capito qualche parola in mezzo al QRM, però non eri comprensibile, hai capito? A Luca lo ascoltavo bene, anche a Natalino lo ascoltavo basso. Ho capito che stavo parlando, ha detto la parola, ma se sapevo l'inglese, però poi il resto non avevo capito la razza. E come mai Antonello mi sta ascoltando Santiago VII adesso? Non lo so, come mai ti sta ascoltando Santiago VII, io non ti percepivo, infatti poi ho detto chiudo perché sennò gli altri magari si incavolano perché io non li sento, magari sovramodulo o qualcosa del genere. E ho preferito chiudere. Comunque, la stazione di Pompugno, non per il baracchino che ama, c'è una stazione che fa cagare. Ehi, vabbè, non è quello il problema, Antonello, ha un po' lasciato andare la cosa perché la postazione non è quella che vuole lui, comunque già tornerà alla normalità. No, mi sono preoccupato, non per me, per te, insomma, c'è la casa di Antonello. Antonello qua è proprio 9:10 fino all'altro giorno. Boh, appunto riesco a tirarti fuori. E non so che problemi hai, perché anche io confermo quello che ha detto Claudio, arrivavi molto bene qua. Oggi sei bassissimo. Riprendi Natalie. E oggi arriva molto male. Non parli, bello be, parla con Muro. Pronto, Unio. Sei la tua antenna, no, non hai capito. Non vado in antenna, io che stavo uscendo di all'infuso a cambiarla, ma non sono sul passaggio, come sento? A piedi, con i cavalli sotto. Attaccati una e andate nell'altra, il discorso è quello. A volte funziona bene, se non ti avete funziona mai, come la funziona. Se la vento vuol dire qualcosa che c'è, se faccia. A me, guarda, io sabato sera non sto lavorando, vuol dire che alle 4 bene ti va, scendiamo giù e smontiamo quella lì e poi non mi dica che se mai ci dovremmo andare a piazzarla. Ah, fa, quindi te la si mette di nuovo davanti, non dobbiamo far parlare, non sua. Non c'è problema. E infatti, quando c'è passaggio, io non mi arrivo il telefono mio, io all'hai. Ho visto di Mario, io all'hai, non c'è problema, ma io. Guarda, mi fido di Mario, non ti stai la verità. E come com'è il conto alla verità, quindi. Non c'è problema, senza offesa la parità. E lui, vabbè, va. Facciamo offesa. E perché a Natalino non lo conosci prima di me? Io sono entrato che Natalino ce l'aveva già mio in baracchino. Voi siete entrati tutti dopo, lui si fida solo di me. Brutto buco. Grazie a me, ti ringrazio. Ma perché l'antenna devi mettere? Va bene, dai, non si prova con questo, non sai, non sai. E poi Luca infatti mi stava dicendo che eri a casa di Antonello. tutto in corto, tutta una chiamata. Grazie, grazie. Vai, va bene. Hai capito? I ginesi, eh? Ora, vedi, dato che li baci veramente, ma vabbè, gli stanno bruciando anche la piazza a certe persone. E ci ha messo Gianni, ci hai dato. Gianni, ci sei, batti un colpo. Gianni, andate, catalessi. È sicuro. Gianni Dromi, attento, Gianni Dromi. A te. A te, se faccio la cosa. Chi è? Chi è? È Pompulio che ti ha chiamato, Claudio. No, c'è una addirittura Claudio di Pompulio. Chi è che mi chiama? Ehi, sono Rosso Rottieri, guarda. Tanto è. Tu immaginati che sono Rosso Rottieri con un'antenna a base magnetica sopra il davanzale della finestra mi arriva quanto è te. Ciao, sono Rosso, buonasera, ben sentito. Sono sempre in compagnia di Mario Mansell, Natalino Alfa 1 e Roberto Quarato. Poi, basso basso, qui a Sassari abbiamo Antonio Licio, che sicuramente non senti. Allora, vai Mario, per sono Rosso, gli attivi e iniziamo con i saluti. Cambio. Con il benvenuto qua e frequenza, cioè non so se mi ascolti, non so, ieri mi hai inserito appena appena con l'altro, con l'accaparato, questo non credo, comunque se mi ascolti ben trovato. Allora Roberto ti senti anche con contatti, l'unico che ascolta sei tu, vediamo se ascolta, a Mario non ti sente, in questo momento non ti sente Mario, vediamo se ascolti a Natalino non fa uno, vai Natale. Natalino Alfa 1, che ci fa sognare Natalino Alfa 1, cappa cappa, avanti Antonello Alicio. E mi ha Antonello. Fermo. Non ci sente più Antonello. Forse si è allontanato per bere o... Ma come il tuo nome, sono Rosso? Come ti chiami di nome? Chiaramente. Vabbè, lui lo rilanciamo ogni tanto. Vai Mario. Mario. Mario non riprende. Allora, Salvatore, hai messo l'antenna da qualche parte o l'hai lasciata dove era prima? Vabbè, sono Rosso. Non riprende più neanche lui. Attento, sono Rosso. Ecco l'Antonello Pomponio. Vai, Pompo. Ah, ma fai il ritorno di Inizia, non guarda il secco. a Gigetto. E non è attaccato a Gigetto, non è che sia attaccato a Gigetto. Arriva e arriva, ma è sembrano piazza come cristiani. Adesso con questo punto è normale, è molto meglio di prima, Antonio. Quindi mi sono dovuto spostare in urgenza. Lo senti, sono altieri. Ma non ci ho fatto caso, adesso non ho sentito nessuno perché ho ripreso adesso. Ma lo senti a Natalino? Mario Marcel, tu hai? Ma dice che non l'ho mai ascoltato, stai facendo la ovviamente come me ci ha ricercato il buono, ci ha posizionato il buono, è chiaro che io ti ascolto, non ti devi meravigliare. Si arriva a Ciaceri con quell'antenna, evidentemente la tua posizione è molto favorevole, tenendo conto che anche io ho una posizione favorevole, una ricezione ottima, è chiaro che riesci ad arrivare, capito? Io ti ascolto, il segnale qua ce l'hai, gli altri dagli altri parti non ce li hai, ma tu considera che Mario abita nella bassa valle di Ciaceri, capito? Roberto con Natalino sono in zona buona, però sono coperti perché sono all'interno di dove sono io. Io sono proprio davanti a te, non ho nessun ostacolo, capito? E quindi ti ricevo per quello, altrimenti non ti avrei ricevuto neanche io. Ma se c'è qualche altro baracchino che ti consente magari di uscire meglio, o qualche amplificatore, qualcosa, capito? Ti conviene metterla, almeno sei sicuro che puoi avere qualcosa in più, capito, dottore? Quindi se ce l'hai mettila, almeno sei tranquillo, non ci sono problemi. Vabbè. E perché invece non si mette l'antenna prima di mettere qualche cos'altro? Dico, se si piazza un'antenna seria, anziché usare un'antenna d'auto, non sta utilizzando un'antenna d'auto, almeno ho capito così. Sì, ma non so perché, ma stai usando, dottore, un'antenna di auto perché non hai possibilità di montare l'antenna lì dove sei, ci sono problemi, fammi capire. Allora, quindi praticamente avevi tolto tutto. Ah, ecco, quindi ce l'avrai l'antenna con la tolta, adesso è salita nuovamente la mania della radio, ha messo l'antenna così e sta provando. Adesso sa che praticamente arriva anche con l'antenna piccola, adesso metterà quella che aveva prima, capito, Roberto? Tutto lì. Vai Mario, rilancia per Antonello, vai. Kappa, è così, No, io, c'è qualcosa negli estensori che non funge, perché Giulietto fa tutto scarico. Tu mi devi ricordare quando ci vediamo, Mario, che sistemiamo questi cavolo di estensori, perché io ne ho già pronti. Io scusa, non capisco perché, ma te l'avevi fatto gli ispezioni? Infatti l'ho fatto, però sicuramente c'è qualcosa che non va. No, perché quello lì ce l'ho qui attaccato all'antenna madre, diciamo così. È vero che già sta funzionando bene, però c'è quello che avevo fatto per attaccare il gigetto che a parte quando lo tocco fa tutto scarico lui già in sé, poi quando attacco a Gigetto ho visto che faceva come delle scariche, niente, non l'ho staccato, no, era giusto per farmi sentire un po' di più dall'amico Sole Rosso. E ho in corso con lo stesso onore che ha fatto la storia alla Rubini. Ecco. Natali, avanti al suo ricorso di adesso, e già ricetti in mano gli altri nel trasmettitore. Natali, allora come si fa il gigo, ma lo so pure ma con il gigo si fa i deficitti. E io non so che ho fatto lì, però non c'è la stazione in corso tu Mario, fai attento che lo bruci con l'affare. Se non vuoi una stazione te lo faccio io. Ah, non è quello. Adesso se domani c'è tempo, vado e mi ricopro un poco di PL e così li rivedo un po' tutte queste stazioni. Ma cosa non è che mi convince a me. Ma ce li ho già pronti io, Mario. Io pensavo che te l'avessi già fatti, capito? Ce li ho già io pronti, quando ci vediamo. Sono già pronti, di quelli io li compro a Mazzetti in fiera quando vado, sono già pronti da 60 centimetri, capito? E io uso sempre quelli lì, se li ho da 60 centimetri fino ad arrivare a 1,50 m. 50, non c'è problema. Prenderemo un paio di attacchi quelli, sei sicuro che funzionano, perché quelli sono già pronti, collocati e fatti, non c'è. Sono fatti a macchina, capito? Sono fatti a macchinetta, non sono fatti così come li facciamo noi. Ed è appoggiato lì perché è un bel pesante. è un bel pregiato. Carta di positivo, allora chi aspetta? Roberto, Giannidrome, vai. Giannidrome, Gianna Gala, Giannidrome, comunque Mario, le questioni più corte li fai meglio, cioè meno problemi. Se lo consiglio, io le ho utilizzate per altre cose, gli amplificatori, ti posso dire, più corti sono è sempre meglio. Ma non posso rischiare, va bene, i corti sono da, diciamo che i piani sono da 1,5 cm, però mettendogli tutto quel peso rischiano di piegarsi, capito, di fare la pancia. Invece gli apparati sono più leggeri, allora sopra metto gli apparati, rovimetri e via dicendo, e sotto tengo a lui. No, te lo sto dicendo perché più allunghi il cavo più altri problemi di interferenze si creano, perché amplifica tutto, oltre che le frequenze che interessano amplificare anche tutti i disturbi esterni. Se il cavo non ha un buon isolamento ti penetrano dei disturbi di cosa, di alternata o di qualche apparecchio che c'è vicino in funzione, una ventola o qualunque altra cosa. Beh, adesso intanto che state chiacchierando voi, io mi allontano 5 minuti e guardo se c'è uno di quegli spezzoni grossi buttato da qualche parte, perché io prima ero un bambino, un bel monello. Adesso vedo un po', ora se lo trovo così lo rimettiamo in funzione. Scappa, riprendi Natali. Scappa, mamma mia. Io ascolto che sono ferma con quel disturbo là. Ma riprendi tu Claudio, là. Sì, un minuto solo da me. Vabbè, rilanciamo intanto a Tore, vediamo se riprende. Ciao Tore, mi dispiace che gli altri non ti ascoltino, che quindi non partecipi per intero a tutto il quel show. Comunque ritenetevi tutti salutati da parte di Tore Soleroso di Alfieri. Ciao Tore, buonanotte, ci sentiamo alle prossime, stammi bene, ti saluta Roberto, Natalino, Mario, tutti quelli che siamo qua. A presto, ci sentiamo. Vabbè, un minuto che devo fare una cosettina veloce e sto riprendendo subito. Ciao. Parla Roberto con Natalino, che io intanto cambio quel cavo a vedere se punge. Sicuramente già punti tu, se vai sul giocattolino già punti. Pungi già senza niente tu, figurati. Natali, quindi c'hai problemi di salute. Mamma mia, quindi mi mira, vabbè, sto caffuto. Che cosa, dovuti a che cosa? Influenza o altre cose? Che peso l'influenza, mamma mia. Purtroppo la salute è quella che non si comanda. Ma riconosco, sentito hai? No, è al lavoro, ma oggi non l'ho mai visto né sentito. Penso ci sentiamo giovedì. Come intende, collega? Già pronto? Oh, già pronto. Sto sempre collegando, quando parli si dimette. Eppure strano, cazzo, non si è mai messo, lui non è così malvagia come posizione dove abita, diciamo, non è bruttissima, lei non è bella ma non è anche bruttissima, però dico, considerando che abita quasi al centro di quella vallata lì, in quel canalone può sparare anche lui. Antenna bugiere, se non ha l'antenna come fa? Altro gliel'ho fatta una, l'abbiamo fatta insieme, una multibanda tutta la mia. Quando si riuscita a passarla la piazziamo e via. Allora anche lui si diverte. Una cosa usi tu? Il cavo normale, cosa usi? Il 58 o 213, con cosa lo fa il default? No, filo normale vuole. E cosa? L'isolatore con quale materiale usi? Non roba ceramica, cosa del genere, niente, sono tubo in plastica adesso. Sono rientrato, forse c'è Mario. Anche io ci sono, funge. Roba, attacca. Così è attaccato, 1-2-3 o 1-2-3? Attacca. Così è attaccato. Hai visto che l'ho spezzato. Riprova Mario un attimino che chiedo tutto lo squelch. Così è attaccato, a zero di... cambiato, ma non sei al massimo ancora. No, prima scatto, ce ne sono altre sì. Tiene due o tre, dai, arriva al terzo, vediamo se arrivi a fondo scala qua di squelch. Sì, al terzo, allo tre. Cazzo, a aumentano che la 9 più 20 al terzo scatto vale più 30. Ci ha pagato, allora già funge, già funge. Allora grande funge. Allora io scendo a perfetta, non ci sono assolutamente problemi. Alla grande, grande. Hai visto che funge. Ci vogliono quegli estensori là, perché questo qui è un carro che io utilizzavo nella 75 ai tempi del furore. Niente, che anche lì c'era Gigetta. Gappa. Oh, io non l'ho provato oggi. Prendi da te il segnale così, in questo passaggio. Mi dame 6920. 9 più 20, aspetta che aumento la potenza. Allora abbassiamo intanto questo che non ci serve. Allora, così è. Ecco qua. Allora, guarda, allora, da questo. Questa è la prima. Aspetta un attimino, vediamo un pochino se sale. Ecco qua. Allora, praticamente così, questa è la mia prima, però io non te la posso fare altra perché ancora è freddo. Quanto è salito? La 9.20 a quanto? 9.30. Allora, la 9.20 a 9.30. Vedi, questa è la prima. Anche la mia è la prima, Anche la mia è la prima. 9.20, 9.30. Allora, ci avviciniamoci. Già va bene. Esci nel sacco e rimettiamo in posizione relax, ok. E anche io devo ogni tanto guardare lo scatto. Va bene. No, io Gigi te lo ho, faccio solo Gigi e poco. E vabbè, io ce l'ho perché questo fa 10 metri l'amplificatore mi serve per fare attività amatoriale, però siccome c'è l'accordatore incorporato lavora anche qua in 11 metri, non è il tocco del tocco, però eroga intorno ai 700-800 watt, capito? In bande amatoriali, va benissimo, mi aiuta un po', mentre qua le do sempre la metà, capito? Per evitare che mi crei problemi alle valvole. Però, vedi, da 9.20 vai a 9.30, è un buon risultato, nonostante non sia della 27, è un buon risultato. Già va bene. Ok, Natale, Santo Pè, la Pasqua. Sì, sto facendo il firmamento. Sto vedendo. Cazzo, non ti invidio, Natale. Esatto, mamma mia. Ho passato, cazzo. Se sai quante stelle vedevo in cielo ogni notte io, mamma mia. E poi tu che è fastidioso, perché non puoi stare matto con il cazzo, l'hai scelto. Esatto. Ma comunque fai quella cura che stai facendo, vedrai che va benissimo alla grande, non ci sono problemi, va muy bien. Ok, passate un attimo, Robert, quando inserisco. Ma con questo no, con l'altro, io nell'altra stanza col faccio devo chiudere meno della metà, perché sennò non riesco a sentirti, sei troppo forte. Con questo niente, non è successo niente, stranamente. Per quello sono portati, devono averla aggiornata. macchina incorporata, capito? E quindi già lavora bene, non ci sono problemi. Ok, che ora c'è fatta, signori? Le 23:20, praticamente le 11:20. E aspettate cosa vi dico, che cosa sta via lasciando la nanna. Spiego tutto e me la vado a dormire, così domani mattina mi alzo presto, mi sistemo e poi me ne vado a tabacco, anche se poca cosa ce la fa domani perché siamo in stato di agitazione, comunque. Necessita sempre la presenza. Signore Billy, grazie del grandioso QSO, saluto gli essere uno più dell'ascolto, eventuali colleghi CB, ciao Natalino, ciao Roberto, ciao Mario, ciao a tutti i circolari. QRT per me, a domani signori Billy, vai Mario. Ciao caro, buon QRT, buon tutto, 244. E buon lavoro per domani. C'è la stessa ascolta, se quello di adesso ce lo consente domani. Kappa. Vai Roberto. Mi ha fatto un tragico, Mario, mamma mia. E anche io chiudo la cosa, la conversazione, pensavo fosse molto più presto, perché domani mi devo andare a travagliare. E sonno ci vuole, un po' di riposo ci vuole, sono abbastanza stanco, diciamo. Comunque ti saluto Claudio, saluto a te Mario, anche a Natalina, a tutti quelli che stanno ascoltando. Buonanotte a tutti e buon tutto per domani perché va a lavorare. Ciao a tutti di nuovo, da Roberto. Ciao Claudio, ciao Roberto, alle prossime, anche me la faccio correttì, perché purtroppo non vi alloggio. Ci sentiamo, ciao Mario, anche a te, eventuali ascoltoni, alle prossime correttì per me. Kappa, ciao ciao, buonanotte a tutti. Ciao a tutti, buonanotte, ciao ciao ciao. Il ramo da prenda. Vamos a prenda todos, vai, muchachos. Oppure, tu sei? No. Ho detto, tu sei, sì, io sei tu. Ma sono io, Madonna. Madonna, che comunque che hai. Non è mio, sì. Lo so che non è tuo. telefono. Ci sentiamo. Ciao, buonanotte.